Voglio dare il benvenuto a tutti quanti e chiaramente in modo particolare a chi è qui per la prima volta, chi è un nostro ospite questa mattina. Posso vedere le mani? Non voglio imbarazzarti, voglio vedere le mani di chi è qui per la prima volta. Ciao, benvenuti. Possiamo fare un altro applauso per dare il benvenuto ai nostri ospiti meravigliosi. E siamo qui per prettamente festeggiare. Oggi è un giorno di festa e vogliamo festeggiare insieme a queste due coppie meravigliose, Alfredo e Linda e lo sapevo che avrei fatto questa gaffe, Michele e Donatella, che oggi hanno deciso di esprimere pubblicamente il loro amore per Gesù. È vero? È la loro scelta di appartenere a Lui e Lui soltanto. E questa scelta vi fa tanto tanto onore e noi siamo qui per celebrare e festeggiare insieme a voi questa vittoria sul peccato, questa vittoria che viviamo insieme. E nei prossimi 20 minuti che ho a disposizione, io sono onorata di poter condividere con voi un messaggio molto semplice, ma che ha il potenziale di trasformare la mia vita e la tua vita. Che tu sia qui per la prima volta o che tu sia parte di questa chiesa da ormai decenni, non ha importanza. La parola che oggi il Signore vuole affidare al nostro cuore ha il potenziale di trasformare ancora di più, ancora una volta, la nostra vita. Amen? Tutti quanti sappiamo, abbiamo sentito almeno una volta la citazione che fa: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E forse quello che non sappiamo è che questa citazione non l'ha detta un filosofo, non l'ha detta uno scienziato, non l'ha detta un politico, ma l'ha detta Gesù in persona. Questa citazione è scritta proprio nella parola di Dio e sono le parole che Gesù ha pronunciato quando gli è stato portato davanti una donna, e questa donna gliel'avevano portati i farisei e gli scribi. Lo vogliamo leggere direttamente dalla parola, perché non voglio cambiare nulla di quello che c'è scritto. Questa storia si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8 e dice proprio così: allora i farisei e gli scribi gli condussero a Gesù una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo. Immaginate questa donna posta nel mezzo davanti a tutti. Dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, incredibile, fingendo di non sentire, un po' come fa mia madre quando mi lamentavo di cose inutili, faceva finta di non sentire. Chinatosi, scriveva con il dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro la fatidica frase: chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla loro coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Allora Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. E questa è una delle storie che io amo di più della parola di Dio, perché è una storia che parla di amore, è una storia che parla di perdono, ed è una storia che descrive, che parla di una seconda possibilità. E queste sono tutte cose che descrivono benissimo Dio, il nostro Dio. Io non so tu che idea hai del Signore. Probabilmente ti è stato insegnato che Dio è un Dio distante, severo, probabilmente sempre pronto a dire «Ah, è sbagliato», a puntarti il dito. Ma il Dio che la Bibbia descrive è tutt'altro. È un Dio che, come abbiamo cantato, ha un amore potente, ha un amore meraviglioso, ha un amore indescrivibile per te e per me. È un Dio che nelle situazioni più disperate è colui che porta speranza. È colui che, come ha fatto con questa donna, tende la mano ed è pronto a darti una seconda possibilità. Questo è il Dio che abbiamo adorato. Questo è il Dio che ha cambiato la mia vita, che ha dato a me una seconda possibilità, che l'ha data forse alla stragrande maggioranza delle persone qui e che l'ha data a voi che oggi vi battezzate e che la vuole dare anche a te, che magari non lo conosci, che magari sei stato deluso, che magari hai un'idea distorta di Dio. Questo è il vero Dio, è colui che ti ama, è colui che ti vuole dare speranza. Amen? E questa è anche una storia che, se da una parte descrive benissimo Dio, dall'altra parte parla di peccato, parla di giudizio e fondamentalmente parla di una scelta sbagliata. È vero? E sono tutte cose che invece descrivono molto bene noi. Perché chi è che può dire no, io nella mia vita non ho mai fatto una scelta sbagliata? Chi? Nessuno. Chi può dire no, io non ho mai commesso nessun peccato, non mi sono mai allontanato da Dio, non ho mai disubbidito alla sua parola? Chi di noi effettivamente quella pietra la può scagliare? Nessuno, nessuno. E di questa donna noi non sappiamo tantissimo. Non sappiamo né il suo nome, non sappiamo né quanti anni avesse, non sappiamo proprio nulla. Ma sappiamo abbastanza da poter dire che siamo tutte quanti come lei. Che non siamo così diversi. Perché tutti quanti abbiamo sbagliato ad un certo punto nella nostra vita. Abbiamo sbagliato, abbiamo scelto di essere indipendenti, autonomi da Dio, e quindi gli abbiamo voltato le spalle. Lui non si è mai mosso, lui è stato sempre vicino, ma siamo noi che, seguendo le nostre passioni, che seguendo i nostri desideri, che seguendo la nostra volontà, ci siamo allontanati da lui. E quindi, come quella donna, abbiamo peccato. Probabilmente, certamente non siamo adulteri, o forse sì. Forse hai tradito tua moglie, forse stai tradendo tuo marito, oppure no, forse sei stato sempre fedele, ma certamente qualche altra cosa ha macchiato la tua anima, ha macchiato le tue mani. Ecco che siamo tutti quanti uguali a quella donna. È il nostro allontanarci da Dio, che lo ammettiamo meno, ha causato la formazione di un vuoto dentro di noi. È vero? Un vuoto che ci rende insoddisfatti. Non devi essere necessariamente depresso, ma c'è quella cosa che tu dici, ma è possibile che è tutto qui? È possibile che io vivo solo per questo? Solo per alzarmi, per andare a lavorare, per ritornare, per mangiare e poi da capo andare a dormire, poi il giorno dopo da capo, la stessa routine. Non c'è qualcosa di più? Ecco che quello è il vuoto, è la ricerca che la tua lontananza, la mia lontananza da Dio ha causato nel mio cuore. È la notizia che io voglio darci questa mattina, è che quel vuoto noi possiamo spendere l'intera nostra esistenza a cercare di riempirlo nei modi più svariati. Ma quel vuoto, come lo era per quella donna, lo è anche per noi, può essere colmato, può essere soddisfatto solo ed esclusivamente da Dio. Perché noi cerchiamo di soddisfarlo, magari per un po' siamo felici e però poi da capo non ci basta. E quindi un po' come se ritornassimo al punto di partenza e siamo più insoddisfatti di prima. Qualcuno si rivede in questo? Ok, perché? Perché quel vuoto continua ad esserci? E ripeto, lo dico a te che sei per la prima volta qui, ma anche a te che fai parte della nostra chiesa da anni. Perché piuttosto che farlo colmare da Gesù, vogliamo colmarlo da solo, da soli. E nel cercare di fare questo, pecchiamo. Perché pecchiamo? Perché crediamo alle bugie che il peccato ci fa. Noi non è che pecchiamo perché dobbiamo. È che uno si sveglia la mattina e dice, oggi devo peccare. Oggi devo fare qualcosa di sbagliato perché questo è quello che voglio. No, se ti alzi così, poi ne parliamo. Vediamo un po' di capire un po' perché. Però nessuno lo fa per dovere, è vero? Noi pecchiamo, disubbidiamo a Dio perché crediamo alle bugie che il peccato ci fa. E Ebrei al capitolo 11 le descrive come piaceri fugaci del peccato, piaceri fugaci del peccato. E quindi la promessa del peccato è che dietro la disubbidienza c'è qualcosa che veramente può soddisfare quel vuoto, che veramente ti può rendere felice, che veramente ti può appagare. È un po' come quello che il nemico, il diavolo, ha detto ad Eva all'inizio dei tempi. No, certamente. Dio ti ha detto di non mangiare il frutto di quest'albero perché altrimenti morrai. No, ma non morirai, non morirete affatto. Anzi, i tuoi occhi si apriranno e sarai come Dio. Vedete, è lo stesso giochetto. Qual era la bugia? No, se fai questo che disubbidisci, qualcosa di più grande, qualcosa di più bello succederà. La bugia che questa donna ha creduto è che tradendo suo marito e che avendo una relazione extraconiugale, lei sarebbe stata più felice, lei si sarebbe sentita più amata. Ecco la bugia, ecco l'inganno. Allora la mia domanda per me e per te è: noi a che cosa stiamo credendo? Qual è la bugia? Qual è la promessa di questo piacere più grande, di questa soddisfazione più profonda, che in realtà solo Gesù ci può dare, ma che noi la stiamo cercando in altro? A cosa stiamo credendo? Perché la donna è caduta in quell'inganno e come conseguenza si è trovata lì, svergognata, pubblicamente accusata e messa quasi a morte. Certamente dietro la nostra disubbidienza a Dio non c'è una lapidazione pubblica, ma una vita vuota sì. Una vita insignificante sì, su questa terra. E una vita eterna, lontano da Dio anche. A cosa stiamo credendo? C'è speranza, perché se tutti quanti noi siamo come quella donna, e per quella donna la soluzione, la speranza è stato Gesù, quanto di più Gesù lo sarà per noi. È vero? Questa è la speranza. Gesù lì era l'unico, fratelli e sorelle, amici, che quella pietra la poteva benissimo scagliare, perché lui non aveva mai peccato. Però non l'ha fatto. Perché lui ha amato quella donna. L'ha amata così tanto da dare se stesso per lei. Perché su quella croce l'adulterio di quella donna se l'è portato Gesù sulle spalle. E ha pagato il prezzo che c'era da pagare. Gesù non aveva interesse a condannare quella donna, come non ha interesse a condannare te oggi per la tua disubbidienza. Ma Gesù aveva e continua ad avere il desiderio profondo non di giudicare, non di condannare, ma di amare, di accogliere, di dare una speranza. E questo è la grazia, questa è la grazia. La grazia ci insegna, la grazia di Gesù ci insegna che chiunque crede in Gesù può ricevere per fede la certezza della salvezza, la certezza di una vita abbondante qui su questa terra e della vita eterna dopo la nostra morte. Non c'è più un prezzo da pagare perché Gesù l'ha pagato. Non c'è più nessun sacrificio da fare perché Gesù si è dato come sacrificio. In tutte le religioni, tutte, c'è sempre l'uomo che deve fare qualcosa per arrivare a Gesù. Che siano le buone opere, che sia una vita rigorosa e disciplinata. C'è l'uomo che si deve affaticare per arrivare a guadagnare l'amore di Gesù. Questo è quello che dicono le religioni, quello che dice la parola di Dio. L'unica verità nella quale vale la pena credere è che Dio ha fatto tutto quello che c'era da fare per raggiungere te. Perché tu... Io con le mie forze non avrei mai potuto fare niente per guadagnarmi l'amore perfetto di Gesù. Questa è la grazia, è un dono. E questo regalo è un regalo che i nostri 4 fratelli e sorelle hanno ricevuto, hanno accettato, hanno scartato. E questo è un regalo che è messo a disposizione per te questa mattina. Questa mattina tu oggi puoi dire: io sono proprio come quella donna, non ho commesso adulterio ma ho fatto altre cose, o ho commesso adulterio e me ne pento, io sono come quella donna, Gesù, sii la mia speranza come lo sei stato per lei, io ho bisogno di te, io credo che tu puoi perdonarmi, credo che tu puoi essere, sei la mia unica vera speranza. E questo ti basta per ricevere la grazia. E questo ti basta per colmare quel vuoto che continua a persistere nella tua vita. Il male che il peccato ha causato nella tua vita. Quel senso di insoddisfazione o quella necessità di doverti sempre di dover sempre provare a te stesso e agli altri che sei capace, che sei abbastanza, quel vuoto può essere riempito solo credendo in Gesù, accettando Gesù e seguendo Gesù. Puoi dire con me: seguendo Gesù. Perché? Perché questo è l'ultima cosa, è l'ultimo aspetto che io voglio presentarvi. Preso da questa storia, Gesù non ha condannato la donna, è vero? Ha detto: nessuno ti ha condannato? No. Ah, neanche io ti condanno. Va e non peccare più. E noi spesso leggiamo queste parole come se Gesù avesse detto: mo vai, perché Gesù, quello che leggo io, è un po' barese. Quindi... Ma vai e vedi un po' tu come ti devi comportare. Uomo avvisato, mezzo salvato. Questo non era il tono di Gesù. Questo non era quello che Gesù voleva dire. Gesù voleva dire: io non ti condanno, ora vai e non peccare più. Perché se mi segui, la tua vita sarà migliore. Perché se mi segui, quel senso di soddisfazione lo trovi e lo troverai solo in me. In Tito c'è scritto: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, ecco che ci salva, si è manifestata. Questo regalo l'abbiamo ricevuto, è vero? E ci insegna. La grazia, Gesù, ci insegna a rinunciare all'impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. La grazia non solo copre il peccato, non solo perdona il peccato, ma anche ci insegna a vivere liberi dal peccato. La grazia non solo perdona quello che abbiamo fatto, ma ci insegna anche a non farlo più, a vivere meglio, ad abbracciare quella vita buona, quella volontà gradevole, quella volontà perfetta che Gesù ha per noi. La grazia porta con sé un proposito per chi la accetta. E qual è questo proposito? È che noi possiamo imparare da Gesù, possiamo assomigliarli sempre di più. Sapete che noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio? Ve lo ricordate quando l'abbiamo letto? Quella non è una storiella, è vero. Siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, ma il peccato, la nostra disubbidienza, ha macchiato quella immagine. È vero? L'ha distorta quella somiglianza. Ecco che la grazia, ecco che Gesù, dopo averci salvato, ci vuole aiutare a restaurare quella immagine. Ci vuole dare un'identità nuova. E invece noi spesso che cosa facciamo? Spesso usiamo la grazia piuttosto che come un mezzo che ci insegna a vivere bene, come una giustificazione per continuare a sbagliare. È vero? Quante volte abbiamo pensato, non alzarti la mano, quante volte abbiamo pensato, vabbè, ho sbagliato, tanto poi Gesù perdona. E vabbè, tanto dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Gesù non è Babbo Natale, che quando, anche se ci comportiamo male, ci porta lo stesso regalo. Gesù è molto di più. Gesù perdona tutti i nostri peccati, quelli passati, quelli presenti e quelli che faremo. Li perdona. Ma questa è solo una parte della verità, perché l'altra parte è altrettanto bella e che è quella che Gesù ci insegna a vivere bene. La grazia, ricevere la grazia è gratuito, vivere nella grazia implica una scelta, la scelta di seguire Gesù, la scelta di voltarci verso Gesù e non più dargli le spalle. Accettare la grazia è gratis, vivere nella grazia è un cammino determinato da scelte quotidiane. La grazia non è mai stata la scusa, la giustificazione a peccare, ma piuttosto la grazia è la ragione per la quale noi non abbiamo più bisogno di peccare. Perché, e con questo veramente concludo, se pecchiamo perché siamo alla ricerca di una soddisfazione profonda, di un piacere più bello, eccetera, eccetera, eccetera, e cerchiamo tutto questo in modi sbagliati, perché tutto questo ce lo può dare solo Gesù, l'unico modo per non peccare più è quello di vivere con Gesù, è quello di cercare la gioia più profonda in Gesù, cercare la soddisfazione più appagante in Gesù. Vivere con Gesù non è una vita di un seguire una religione piena di obbligazioni e piena di comandamenti che non devi fare. Vivere con Gesù non è un rinunciare ai piaceri della vita. Vivere con Gesù è trovare il vero piacere, il vero amore, la vera pace, la vera speranza, la vera guarigione che solo Lui e Lui soltanto oggi vuole dare a me, vuole rinnovare in me e lo vuole fare anche in te, che sia per la prima volta o che sia un riconfermare il fatto che vogliamo fare di Gesù la nostra gioia più profonda.